da quando partì la riqualificazione del centro Minganti non sono riuscita a capire i veri motivi, perché in realtà allora sulla COP ti so solo che anche con la COP è stato fatto tutto molto repentinamente, cioè giravano voci ma qualche settimana prima, e in realtà proprio tipo un mese e mezzo, due mesi prima hanno cominciato a mettere fuori i cartelli dicendo appunto che avrebbe chiuso. Stessa cosa hanno fatto con la Virgin, il tempo di neanche due mesi, e hanno dato la comunicazione, hanno proprio messo fuori il cartello e cominciato poi a mandare le mail ai soci. Allora io ho chiesto un po' anche a vari politici che stanno seguendo appunto un po' la situazione, soprattutto ho parlato anche ieri con la del Navile Franco Cima, che sinceramente dai dati che lui ha in mano non ha chiaro il motivo nemmeno lui del perché il centro chiude. Allora io ti dico, io in palestra ci vado tutti i giorni, ma c'è sempre gente, il centro è pieno, è stato creato anche un gruppo Facebook, quelli che non vogliono che la Virgin se ne vada via dal Minganti, ma sinceramente la Virgin a livello proprio ufficiale non ha mai dato risposta, e sembrerebbe che addirittura il centro Minganti vada anche meglio del centro che c'è a Casalecchio. Non sembra che sia un problema legato comunque a qualcosa di solamente economico. Poi quello che ha messo Virgin come comunicato ufficiale è che gli standard del centro Minganti non rispecchiano il loro standard per quello che vogliono offrire ai loro clienti, tant'è che loro hanno poi messo una nota dicendo che più avanti vorranno aprire un nuovo centro proprio nel centro storico, addirittura si parlava di via Carbonesi nella nostra zona. Una soluzione che possa, diciamo, soddisfare un po' quello che poi portava Virgin non c'è. Quindi timori sia dei dipendenti che degli utenti della Virgin Active sono legati soprattutto alle questioni, diciamo, organizzative di spazio? Ovviamente essendo rimasti solo loro, probabilmente i costi di gestione sono stati alle stelle, perché tutto quello che sono le parti esterne ai comuni, ovvio che finché le dividi con altri negozi, con altre strutture sono una cosa, dopo rimangono tutte a tuo carico, e questo, su questo non abbiamo dubbi. Però non sembra che il problema sia economico, ma sia piuttosto di prestigio, diciamo, perché loro dicono che appunto con un centro così ma ridotto, abbandonato, non possono mantenere uno standard per i loro clienti. Cioè loro dicono, io ho un cliente che viene da me perché sono Virgin Active e perché do questi servizi, queste garanzie di comunque qualità, cura negli ambienti, eccetera. Adesso se fai un giro e vai a vedere, c'è una schifezza, c'è polvere dappertutto, cioè entri dentro, fai proprio le impronte, quindi insomma, sai, loro giustamente ti dicono, guarda, il mio cliente deve essere tutelato, quindi io a questo punto me ne vado via, aprirò un altro centro da un'altra parte perché qui non è consono. Adesso la proprietà, quindi il Minganti, sta facendo lavori di ristrutturazione perché deve mettersi a norma per l'antisismica, magari è una cosa un po' più lunga, però adesso li stanno facendo, quindi i lavori non comportano la necessaria chiusura. Stanno chiudendo a zone, ad esempio anche i parcheggi, stanno facendo delle zone che chiudono perché ovviamente devono fare le infrastrutture per l'antisismica, e comunque anche se devi chiudere 10 giorni, ad agosto chiudi 10 giorni, fanno i lavori, poi riapri. Secondo te quali sono, se ci sono, delle correlazioni tra il fallimento di questo centro e l'apertura di una serie di supermercati nelle zone più centrali di Bologna, quindi nel centro storico, comunque più limitrofe alla zona più centrale? Io vivo in Bolognina, ho comprato casa lì. Ti sono sincera, secondo me la Bolognina è una zona che, a parte che stanno riqualificando tantissimo, quindi a parte questo problema del Minganti, tutto il resto vedo che comunque si sta mettendo sempre meglio, diciamo, come situazione. E credo che non c'entri molto, nel senso che se io come persona vado a farmi un giro nel centro storico, vado a farmi un giro nel centro storico perché mi faccio la domenica pomeriggio, ma tutto quello che riguarda appunto le persone che abitano a Bologna, cioè vanno ovviamente ad usufruire dei servizi che trovano nella zona. Cioè io lavoro in centro, vivo in Bolognina, faccio la spesa in centro, se sono in centro faccio la spesa in Bolognina, se sono in Bologna, cioè non è che dalla Bolognina vado a fare spesa in centro, non ha un senso. Ovvio che chiudendo la palestra Virgin non ha senso, per dire, sotto adesso stavano parlando di far entrare Aldi, un supermercato, una catena, credo che sia nella zona marchigiana, e parlavano che dovrebbe dovrebbe arrivare dopo l'estate. Allora, sinceramente, detta come va detta, non credo che abbia un senso logico, perché finché c'era la Virgin noi facevamo tutti la spesa alla Coop, quindi la Coop fondamentalmente di gente ne aveva, perché comunque c'era un ingresso quotidiano di persone che uscite dalla palestra se andavano a comprare le due o tre cosette che ti mancano alla Coop lì sotto. Adesso c'è l'Eurospar, non c'è più la Coop, non c'è più la Virgin, io vado all'Eurospar a fare la spesa. È ovvio che non vado dentro a un centro abbandonato dove forse metteranno un supermercato piccoletto. Ovvio che aprire nei dintorni qualcosa sicuramente porta via lavoro ad altri, ma in questo caso specifico il problema è che chiudendo tutto è ovvio che dopo lì dentro non ci va più nessuno. Addirittura c'erano state anche delle proposte del comune per dare in affitto degli uffici sotto dove potevano mettere, avevano proposto un'associazione di 7 pediatri che comunque avevano già pieno servizio, quindi già pieni di pazienti, e non è stata concessa dalla proprietà. Avevano addirittura chiesto dal comune proprio degli uffici comunali e non sono stati accordati nemmeno quelli, quindi io non lo so sinceramente di preciso cosa ci sia sotto e che cosa poi voglia fare effettivamente la proprietà di questo stabile, perché poi la cosa che preoccupa un pochino tutti è l'abbandono della zona, perché quello comunque in effetti è l'unico punto di riferimento che c'è, è proprio abbandonare un po' la zona dal punto di vista anche sociale. Comunque se ti trovi un centro come il Minganti che era ripartito, che comunque pian piano si è svuotato ed è stato abbandonato.